big chick. She, I need chick. But she's what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. What a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stop, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stick chick. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she what makes me tick. Mama, yeah. Clickety click, I'll stick chick. Yeah, don't you know she's a stick? Chick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click it, click, click, click. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I gotta yeah, crazy little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah. Ritrovati e ben ritrovati, oh sole mio, alle pizza, spaghetti, mandolino, quant'altro. Slick Chick, Radio Wombat, ovviamente, come tutti i ogni tanto zompo, ma insomma quasi tutti i mercoledì, e anche oggi non fa eccezione, mercoledì 4 aprile. Abbiamo iniziato così lirici, visto che è una giornata... Vabbè, è una giornata orribile, va bene, è grigissima, c'è tipo la nebbia, ci mancano solo i lupi mannari, c'è la pioggia, tutto è molto bigio, però noi abbiamo la consapevolezza che la primavera ormai è iniziata, non ce la toglie nessuno, cioè non veniteci a raccontare che colpo di coda, no, ora la primavera è arrivata, abbiamo già dedicato con Slick Chick una puntata alla primavera come gesto scaramantico, mentre praticamente c'era ancora un inverno che impazzava, ha abbastanza funzionato, e quindi proprio perché evidentemente in qualche modo funziona, Slick Chick quest'oggi è dedicata al sole, ma Slick Chick andrà in onda in forma ridotta. Non so se vi ricordate come quando i bei tempi in cui ancora si facevano gli scioperi e i telegiornali dicevano questa cosa ogni tanto. Ecco, perché cause di forza maggiore mi impongono oggi di fare una puntata un po' breve. Quindi ho ben pensato di, anziché lasciarvi a bocca asciutta, mi sarebbe sembrato brutto, anzi vi beccherete una puntatona, ma in forma ridotta, perché la seconda parte della puntata dedicata al sole, come avrete intuito di questo stiamo parlando, la seconda parte della puntata andrà in onda mercoledì prossimo, quindi insomma ve la beccate spezzettata, tutti i raggi di sole che la musica ci dà. Beh, oddio mio, veramente che fricchettonate che mi ispirano il sole. Bene, giusto perché non dobbiamo indugiare troppo sulle fricchettonate, il sole e quant'altro, siamo partiti appunto da O Sole Mio, andava messa d'altra parte, ma che secondo voi potevo non mettere O Sole Mio in una puntata dedicata al sole? Mi sembrava brutto. Beh, tra tutte le versioni veramente ce n'è, ovviamente, di tutti i tipi, di tutti i colori, orribili, la maggior parte sono inascoltabili, anche purtroppo perché negli Stati Uniti hanno deciso che era una canzone molto bella da eseguire e interpretare negli decenni, e quindi ce ne hanno regalate veramente di tutte le versioni, una più terribile dell'altra. Quindi invece mi sono concentrata su delle statunitensi, che però proprio statunitense non sono, non completamente, perché sono mezze italiane, ovvero Carmela e Rosa Ponselle, versione questa qui del 1921, beh, come si capiva, penso, dalla registrazione non proprio cristallina. E le due sorelle, ovvero Carmela appunto e Rosa, erano rispettivamente Carmela un mezzo soprano e Rosa un soprano. Classe 1892 Carmela e 1897 Rosa, insomma pochi anni di differenza le separavano, figlie di Bernardino e Maddalena Conte, italiani immigrati da Cagliazzo. Ma in realtà fu soprattutto Rosa a diventare celebre e continuare la sua carriera come soprano drammatico, lo vedremo poi, fu soprannominata la Caruso in gonnella o la Caruso dei soprani. Riferimento poi diventò un riferimento per moltissime cantanti dei decenni successivi, tra cui, udite udite, la Callas, che prese un po' lei come punto di riferimento, almeno parziale, per la parte di soprano drammatico, e la sua voce effettivamente molto interessante. Una grandissima diva, Carmela amava... No, scusate, già le scambio, cioè già ho questi problemi. Rosa è quella diventata famosa, Carmela, poverina, poi lo vedremo, non è che ha fatto molta fortuna, ma invece Rosa divenne una grandissima diva dei primi anni del Novecento, amava farsi fotografare in pose liberty, ci sono delle foto meravigliose di lei in tutte le pose più liberty che vi possono venire in mente. Prima però, dicevamo, la nostra amica Rosa aveva cominciato cantando nei varietà insieme alla sorella, la povera Carmela, le Ponzillo Sisters, perché chissà Ponzelle come potevano gli americani a inizio secolo pronunciarlo. Poi Rosa, senza quasi nessuna esperienza e pochissima tecnica alle spalle, tecnica divenuta poi in realtà solidissima, si buttò sul palco del Metropolitan a ben 21 anni. E fu un successo incredibile, nonostante appunto si buttò un po' di fatto. Le note gravi, medie, acute, tutte allineate sulla guida del soffio, costituivano una stele vocale granitica per armonici, sostanziosa per vibrazione, insomma un violoncello che ella sapeva suonare con abilità tale da rivelare suprema perfezione di magistero. Questa una delle tante definizioni, dei tanti racconti entusiasti della sua voce, che un po' ci narrano della sua voce. Ad appena 40 anni, però, Rosa decise di troncare la sua carriera, non perché la sua voce avesse subito alcun cedimento, perché anzi tutt'altro, ma perché in pieno ventennio fascista, anche se ricordiamolo, si trattava, cioè eravamo un po' lontani geograficamente, eravamo negli Stati Uniti, ma d'altronde il tempo era quello, e le donne stavano meglio in casa, come ben si sa, e Rosa aveva ben pensato di adeguarsi e che sposare un miliardario fosse poi la cosa in fondo più giusta e consona da fare. Quindi ci ha privato della sua voce abbastanza presto ed è andata un po' così. Questa era la voce di Carmela e di Rosa, non soltanto Rosa, era accompagnata da Carmela con degli splendidi colori che si intrecciavano. Ora, per cambiare completamente registro e proseguire nella nostra seppur breve scaletta di quest'oggi, andiamo in Europa, ci allontaniamo un po', anche se beh, qui di fatto eravamo nel sud, nel meridione, nel Mediterraneo, io mi immagino proprio limoni, quelle cose, no? Il sole, l'estate, tante belle cose che mi posso soltanto ricordare e immaginare, perché dalla finestra qui del Wombat, della Wombat Caverna, proprio non te le puoi che immaginare. E arriviamo dunque quindi in Europa, in un'Europa un po' più, un po' meno mediterranea, in Francia con Kenny Arcanà. In particolare lo spunto ce lo dà un album uscito nel 2012, Tout tourne autour du soleil, che quindi tutto gira intorno al sole. E beh, Kenny Arcanà ne abbiamo già parlato in altre puntate, ve l'ho già fatta ascoltare e comunque penso molti di voi la conosceranno. Franca argentina, fa parte del collettivo La Rage du Peuple, un po' la voce delle, proprio il collettivo è un po' la voce delle banlieue marsigliesi, almeno una parte di queste voci. E il brano che ho scelto, tratto da questo disco, è Le Syndrome de l'Exclu, featuring RPS, appunto, album sempre quello di prima, Tout tourne autour du soleil del 2012. J'ai le syndrome de l'exclu, l'impression de pas être à ma place, mal jugé, mal vu depuis l'époque d'aller en classe. Dégaine, de délinquante, je pue la zone à trois bornes, l'impression d'être jeté même quand y'a des gars à bas bord. Ils nous prennent pour des primates, ça met sur les nerfs, j'ai pas les mots, je m'exprime à l'écran, j'en ai plus, je m'énerve. Ouais je sais, c'est nul, ça m'a causé des torts, mais j'ai pas la patience de ceux qui sont restés à l'école. L'impression de déranger par ma simple présence, quand je suis loin du quartier, de mes gens, je déstabilise, attise la vigilance à faire flipper les mamies et faire stresser les vigiles. Je ressens la méfiance de l'autre comme un coup bas, je paranoïde de sa parano et je me sens coupable. Depuis que je suis môme, j'en ai ras le bol, je m'auto-exclu car de l'exclu j'ai le syndrome. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. Douleur infantile, sentiment d'exclusion, alors je foutais bordel quand j'étais petite. Aucun respect pour la complaisance, ni celle des petits ni celle des grands. À force d'être vu comme le vilain petit canard, ça te fait pousser les dents. Sentir la crainte c'est blessant, et petite ça m'a blessé. Alors tu deviens ce qu'ils dessinent dans leur cliché, une marginale qu'on n'a plus rien à pisser, une sauvage au royaume d'une peur trop civilisée. Tu sais, le syndrome est profond quand tu rentres pas dans leur format, et que l'injustice est comme normal. Faut oser, sinon tu es mort, man. Que chacun de nous porte l'âme de qui il est, la vérité qu'on proclame. Prison de stéréotypes, je suis coupable avec ma tête de craps. Allez-vous-en avant que je pète un câble. Y'a que des figures hypocrites dans vos symboles. Laissez-moi dans mon coin, car de l'exclu, j'ai le syndrome. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. Pourquoi je me sens coupable si un vol dans l'assemblée, j'ai le syndrome de l'exclu. Pourquoi la vendeuse me regarde et les vigiles commencent à trembler, j'ai le syndrome de l'exclu. Pourquoi vois ceux qui me regardent de haut ne me regardent pas dans les yeux. Pourquoi les flics me tutoient? Pourquoi les bourges sont mal à l'aise? Pourquoi je me sens jugé si je bouge de ma zone? Victime de leurs clichés dont leurs médias raffolent. Le syndrome de l'exclu qui m'a poussé à me battre, à être qui je suis. Loin de leurs critères à deux balles, à m'en sortir par moi-même, à fuir de l'abattoir. Exclu de leur monde, j'accomplis ce qu'ils ne veulent pas croire. Le syndrome de l'exclu qui m'a poussé à me battre, à être qui je suis. Loin de leurs critères à deux balles, à m'en sortir par moi-même, à fuir de l'abattoir. Exclu de leur monde, j'accomplis ce qu'ils ne veulent pas croire. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures. Catégorie tête dure et un manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures. Catégorie tête dure et un manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. E sempre rimanendo nei grandi classici dedicati al sole, c'è un brano che anche qui non mi potevo esimere da farvi ascoltare, che è House of the Rising Sun. L'originale è... beh, diciamo, l'originale no. L'originale portato a... diciamo quello più famoso, l'arrangiamento, quello che poi è arrivato a noi e che l'ha reso celebre, è quello degli Animals del 1964. Generalmente, insomma, è quello che un po' tutti si ricordano, anche probabilmente per il riff iniziale. Insomma, è poi andata così che sono stati gli Animals a portarlo alla luce, ma il brano non è loro. Tutt'altro, e non si sa bene risalire con precisione all'origine di questo brano. Sicuramente si tratta di è databile più o meno tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, ma le parole dell'autore sono anonime. Non si sa bene chi l'abbia scritte. Ci sono due versioni del brano, una femminile e una maschile, ovvero le parole sono leggermente cambiate, anche se poi lo vedremo, il senso è poi sostanzialmente molto diverso. Nella versione femminile e in quella maschile. La versione femminile probabilmente è quella originale, versione che poi, dopo gli Animals, che invece cantavano la versione maschile, è stata resa celebre da John Baez. La melodia, invece, ma mentre il testo appunto non si sa bene di chi fosse, la melodia probabilmente è stata ispirata a quella di Matty Groves, una ballata inglese del 600. Cosa molto nota e molto che avveniva spesso, quella di ispirarsi a una melodia già esistente, molto popolare, e poi rifarci un'altra canzone. Al maschile, dicevamo, al femminile è stata portata alla ribalta da John Baez. Al maschile invece, versione tra l'altro ben più nota, ovviamente, è stata portata alla luce da tantissimi che l'hanno interpretata nei modi più disparati: Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, Lead Belly e ovviamente, soprattutto, come dicevamo, gli Animals. In Italia non ci siamo fatti mancare niente e abbiamo anche avuto una cover di Ricky Maiocchi con il titolo Non ditelo a mia madre, che fu censurata dalla Rai, nonostante la versione di Mogol e Pallavicini fosse ovviamente completamente stravolta ed edulcorata e con la trama vera e propria del pezzo originale non c'entrasse fondamentalmente niente. Perché? Perché la Casa del Sole Nascente, House of the Rising Sun, è una casa di tolleranza di New Orleans. All'epoca di questa canzone, appunto, parlavamo di fine Ottocento, inizio Novecento, era questa casa di tolleranza stava nel quartiere a luci rosse di New Orleans, quartiere che era il più esteso del mondo, cioè il quartiere a luci rosse più esteso del mondo, era una sorta di città dentro la città e veniva chiamata Storyville dal nome del consigliere comunale Alderman Story, che ne aveva in qualche modo propugnato la costituzione per togliere queste terribili pestifere donne dalle strade. E però sappiamo e ne abbiamo già parlato col Dalai Lama in una lunga e esaustiva, penso, puntata su New Orleans, quelle case chiuse in quella particolare città, in quel particolare periodo, furono anche la culla di un nuovo stile musicale che avrebbe poi avuto tutta la storia che sappiamo, ovvero il jazz. Ma poi Storyville fu rasa al suolo in occasione di una ondata moralizzatrice che fondamentalmente mirava a dare una regolata all'esercito, che usufruiva evidentemente troppo di questo quartiere, e quindi da lì si rasa al suolo il quartiere, anche che con grosso stupore dei frequentatori e delle lavoratrici si chiuse un po' quel capitolo. Le donne che entravano nel giro delle case chiuse Storyville venivano registrate come prostitute dal sistema giudiziario e non potevano sostanzialmente più uscirne, ed è un po' di questo che parla la versione femminile originaria di House of the Rising Sun. È una donna che parla della propria condizione e si dispera per esserci entrata a suo malgrado, ingenuamente, da ragazzina portata da un signore lì dentro, e poi fondamentalmente non essere più potuta più uscirne. Secondo alcune fonti, una casa di tolleranza precisa proprio con il sole, con questo nome, con il nome del sollevante, era esistita veramente tra il 1862 e il 1874. Era di proprietà di una maîtresse che si chiamava Madame Marianne, e Le Soleil Levant era un po' il nome della casa, e una sorta di traduzione del soprannome francese di questa Madame Marianne. Le Soleil Levant veniva anche soprannominata appunto la stessa maîtresse, e poi quindi anche la casa. Secondo altre fonti invece, il riferimento della canzone originale in realtà era a una prigione femminile del capoluogo della Louisiana, e quindi insomma, però fondamentalmente non è che cambia molto la sostanza, anche se poi i due luoghi erano poi diversi, però insomma le catene c'erano in ogni caso. E quindi House of the Rising Sun, però non nella versione degli Animals, non nella versione di tutti quelli che vi ho precedentemente illustrato, ma nella versione iconoclasta degli Adolescents. The ruin of many a poor girl. Beh, il sole in effetti non è sempre stato declinato nella musica come un qualcosa di bello, di un simbolo positivo, un qualcosa di elettrizzante e meraviglioso. Ecco, molto spesso invece il sole è stato usato come una luce che dava fastidio, o a volte illuminava dove non era, dove era meglio non illuminare, o anzi il sole veniva... più usato come termine ironico e paradossale, come in questo caso House of the Rising Sun, dove il sole si levava, sì, per modo di dire. E qua invece arriviamo ai Black Sabbath con un brano, un pezzaccio veramente, perché anche qua il sole diciamo che c'entra fino a un certo punto e c'entra un po' malaccio. Il brano è Under the Sun e il più che di sole si parla di neve in questo caso, perché l'album è Black Sabbath volume 4, volume 4 del 1972, e il disco Black Sabbath volume 4 inizialmente pare dovesse intitolarsi Snowblind, come poi invece si intitola un altro brano presente sempre in questo disco. Il gruppo però fu costretto dalla casa discografica a cambiarlo per il riferimento fin troppo evidente alla cocaina, snow, neve, e quindi decisero, no vabbè, chiamiamolo volume 4, un po' così, in maniera abbastanza formale, come il quarto disco registrato in studio dei Black Sabbath. Anche qui i più ottimisti, invece ci sono degli allegrotti che dicono che no, che invece il titolo, cioè il titolo della canzone, che doveva anche essere quello che dava il titolo al disco, si rifà invece ad un nel fumetto che alcuni di voi, beh, insomma, è strafamoso, ma penso che, spero, molti di voi conosceranno, fumetto degli anni 60, L'Eternauta, nel quale la neve cieca è, sono blind per l'appunto, è quella che proveniva dalle radiazioni nucleari e che cadendo colpiva qualsiasi cosa si trovava nella sua traiettoria, la neve assassina dell'Eternauta. Ora, non è che questa fosse una visione molto più allegrotta, però in realtà è un po' ottimista, nel senso che invece Black Sabbath erano molto più terra terra, e magari si fossero riferiti all'Eternauta, molto più probabilmente si riferivano alla cocaina, tant'è che addirittura nei credits finali non hanno, nell'edizione originale in 33 giri, non hanno trovato niente di meglio che mettere "We wish to thank the great Coca-Cola Company of Los Angeles", chiaramente non perché erano impazziti e volevano fare pubblicità alla Coca-Cola, ma per infilare per forza in barba alla casa discografica un ovvio riferimento alla loro sostanza preferita. Il processo di registrazione, come potrete un po' immaginare, di questo disco fu alquanto travagliato a causa delle suddette abitudini, e erano fondamentalmente tutti strafatti dalla mattina alla sera, e giusto per dare un'impronta decisa alla registrazione, il gruppo si faceva regolarmente recapitare in studio dei grossi scatoloni pieni di cocaina nascosti all'interno delle custodie d'amplificatore. Ottimo. La villa a Bel Air che era stata affittata durante la lavorazione del disco era di proprietà di questo John DuPont della DuPont Chemical Company, e pare che, simpatico aneddoto, i membri del gruppo trovarono a un certo punto all'interno di questa villa un sacco di bombolette di vernice spray oro, color oro. Allora, che fanno? Ah, meraviglioso, bomba, ora si fa uno scherzone. E trovano uno dei componenti completamente ubriaco, che dormiva sul pavimento, e allora decisero di fargli questa burla e di dipingerlo completamente d'oro dalla testa ai piedi con la bomboletta. E a un certo punto si accorsero che Ward non riusciva più a respirare e che si svegliò improvvisamente iniziando a vomitare. A quel punto i Black Sabbath dissero: forse non è stata un'ottima idea. Chiamarono l'ambulanza e gli infermieri gli comunicarono che in effetti le vernici erano tossiche e che avevano avvelenato quasi mortalmente il povero Ward. Poi tutto andò bene, più o meno, però ecco che burloni che erano i Black Sabbath. E questa è Under the Sun. We'll be right back. in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. While that lucky old son's got nothing to do but roll, roll around heaven all day. Now I've got to work for my family and toil for my kids, sweat until I'm wrinkled and gray, gray. While that lucky old son got nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord up above, don't you see that I'm pining? Tears all in, all in my eyes. Send down your cloud with a silver lining and lift me to paradise. Oh, show me, show me that river and take me across and wash all of my troubles, wash them away. While that lucky old son ain't got nothing to do but roll around your heaven all day. Now good Lord, dear Lord, can't you see that I'm trying? Tears all in my eyes. Now send down your cloud with a silver lining and lift me to paradise. And oh yeah, show me that river. And Lord, take me across. And I wonder, will you wash all of my troubles? Lord, wash them away. While that lucky old son got nothing to do but roll, roll around heaven all day. That lucky old son ain't got nothing to do but roll, roll, roll around heaven all day. Yeah. Salto che vi ho fatto fare, no? Aretha Franklin, ovviamente, That Lucky Old Son, Slick Chick su Radio Wombat, la potete ascoltare, ve lo ricordo, dal sito wombat.noblogs.org, ascoltandola quindi in streaming, come magari molti di voi stanno facendo, e oppure anche in onde medie sulla frequenza 1359 AM se siete raggiunti dal nostro segnale. E vi ricordo i social Wombat, oltre al sito già citato wombat.noblogs.org c'è anche la casella di posta postawombat@insiberia.net dove poterci scrivere. Proseguendo, ci restano una manciata di pezzi per questa prima parte della puntata di Slick Chick dedicata al sole, e questo era appunto That Lucky Old Son interpretato da Aretha Franklin nell'album The Electrifying Aretha Franklin del 62, ma l'originale That Lucky Old Son è un classicone reinterpretato veramente da tantissimi. L'originario è del 1949 e le parole erano state scritte da Evan Gillespie, un compositore e paroliere, diciamo così, considerato appartenente a quella cerchia dei songwriters newyorkesi che veniva chiamata Tin Pan Alley, della zona, cioè soprannominata così per la zona della città in cui quasi tutti loro vivevano, e che poi erano i più grandi creatori di musica popolare americana tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. La musica invece era di Beasley Smith, compositore originario del Tennessee, e molto probabilmente, quasi sicuramente, la melodia fu ispirata da uno dei temi costanti di molti blues e spiritual, insomma, condivideva con essi la melodia, o almeno parte di essa. Proseguiamo con sempre un po' di soul, qui però passiamo dal sacro al profano, perché è vero che il prossimo pezzo è di Stevie Wonder, ma è la versione italiana, ovvero Il sole è di tutti, del 1967, sole bene comune potremmo dire. L'originale ovviamente è A Place in the Sun e il testo, lo sentirete, è veramente molto fermante. È di tutti, povero Stevie Wonder, che gli è toccato fa per una pagnotta alla Rai. Continuiamo, siamo a quota meno due pezzi dalla fine di questa puntata, e direi che i prossimi due pezzi sono meravigliosi, anche se diversissimi. Partiamo dai Negazione. Come non farlo? In Negazione con ovviamente Il giorno del sole. tratto dall'album del 1988 Little Dreamer, che poi è anche Il giorno del sole, il titolo di un libro più CD uscito per la Shake pochi anni fa, che raccoglie un po' di racconti scritti dagli stessi Negazione, almeno purtroppo parte di essi. La nostra speranza, avere Il giorno del sole, facile per gli ingenui, impossibile per gli ipocriti. L'unica nostra forza è la sincerità. Il nostro giorno del sole splenderà di energia fin dall'alba e il tramonto vivrà dei nostri sorrisi sui volti scavati dal pianto. Dedicata a chi teme la pioggia. Hai sempre voluto, questo è solo un viaggio, ma noi siamo qui legati, dobbiamo ancora crescere nel fango, a te rimaniamo i confini, fortemente volute, la sua limpida delle sensazioni, sincere ma pagate col prezzo del dolore. Quello che ci rimane è la tristezza del tramonto serena, tristezza di giorni di cime sofferte nel limbo delle emozioni più forti. La nostra speranza vede il giorno del sole facile, vicine impossibile per gli ipocriti. L'unica nostra forza è la sincerità, il nostro giorno del sole la energia fin dall'alba e per non vibrare i nostri sorrisi sui volti scavati dal pianto. L'unica nostra forza è la sincerità, il nostro giorno del sole spenderà l'energia fin dall'alba e per non vibrare i nostri sorrisi sui volti scavati dal pianto. Dobbiamo ancora strisciare il fango, la terra in le emozioni, fortemente volute, e l'acqua di tutte le sensazioni, sinceri. Che meraviglia, questa piccola e breve puntata di Slick Chick, prima parte di tutta l'interezza dedicata al sole. Questa piccola parte sta per finire, perché vi lascio con l'ultimo brano, che è di Caterina Bueno, perché lo spunto è quello di parlarvi dei dischi del sole, almeno farvi ascoltare qualcosa, perché parlarne approfonditamente purtroppo non si può fare, visto il poco tempo a disposizione. I dischi del sole erano un'etichetta discografica fondata a Milano nei primi anni 60, che era nata come una casa discografica militante sull'onda dell'esperienza precedente del cantacronache, e fino alla fine degli anni 70 ha pubblicato canzonieri popolari, album della canzone impegnata, chiamiamola così, italiana, e per dirne alcuni, ma sarebbero milioni veramente, Fausto Amodei, Gualtiero Bertelli, Caterina Bueno appunto, e Giovanna Daffini, Ivan Della Mea, Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli, Sandra Mantovani, Pino Masi, ce n'è veramente moltissimi. Raccolte monografiche e raccolte invece dedicate a un tema più specifico. E i dischi del sole sono stati importantissimi nella conservazione e nella diffusione del patrimonio culturale popolare italiano, e Caterina Bueno era una meravigliosa pioniera che se ne andava in giro nelle campagne e nei paesi con un registratore a tracolla a registrare i canti e i racconti delle sue genti, e Caterina Raccatta Canzoni la chiamavano. Boh, non lo so, ce ne sarebbero veramente da dire tantissime su questo tema, sui Dischi del Sole e in particolare su Caterina Bueno. Un giorno lo faremo magari in una puntata apposta, chissà. Con questo però di corsa vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo per a questo punto continuare la trattazione di questo tema dedicato al sole. Qui nel frattempo, nonostante sia notte, è spuntato un sole, ci sono i coniglietti che mi salutano, è tutto bello, è tutto ridente, le margheritine intorno a me, e quindi con questa atmosfera gioiosa e primaverile vi do appuntamento appunto a mercoledì prossimo, sempre su Slick Chick, sempre su Radio Wombat. Ciao ciao. Ah, il pezzo non ve l'ho detto, è Cade l'Oliva di Caterina Bueno, appunto. Cade l'oliva, non cade la foglia, le tue bellezze non cadono mai. Sei come il mare che cresce a onde, cresce per vento ma per acqua mai. È come l'erbo tenerino, quanto più cresci più venti bellino, e tu sei come l'erbo tenerello, quanto più cresci più doventi bello. Yeah.